prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Nuovo appuntamento con la Caritas, o meglio le Caritas, perché percorriamo, grazie a questa nuova rubrica Prossimo Tuo, percorriamo anche il territorio e le esperienze diocesane e non solo. Settimana scorsa a Treviso con la situazione dei profughi, oggi incontriamo la Caritas di Padova e diamo il benvenuto al direttore Don Luca Facco. Buongiorno e grazie di questo invito. Grazie Don Luca, poi sentiremo anche un'altra voce. Con te iniziamo a spiegare meglio che cos'è Caritas, perché magari tante cose si danno per scontate o si hanno delle immagini che non corrispondono a tutta la realtà complessa e importante di questo organismo. Sì, abbiamo colto questo invito a partecipare a questa trasmissione proprio per questi due obiettivi, per riuscire a ridirci e a ridire che cos'è Caritas, proprio alla luce di questi 40 anni, riscoprendo proprio la mission per cui Papa Paolo VI 40 anni fa ha voluto questo organismo pastorale della Chiesa Cattolica. E anche l'altro obiettivo che ci siamo dati in queste trasmissioni è riuscire in questo tempo particolarmente pesante di sofferenza, di crisi, riuscire a cogliere quelli che sono i germogli di bene che sono presenti nel territorio. Ci sono tantissime esperienze piccole ma concrete, reali, di bene che sono proprio il segno più interessante dell'opera di Caritas nel territorio. Ecco, di opere poi e di attività, esperienze concrete parleremo nel corso di quest'anno, ma vorrei che ci introducessi un po' al vero significato, ai veri e autentici primari scopi di Caritas. Sì, credo che poi con calma durante quest'anno riusciremo un po' a sviscerarli anche meglio, però importante è cogliere qual è proprio lo specifico della mission di Caritas, ciò che la differenzia da tante altre realtà caritatevoli che sono nate dentro la Chiesa. La differenza è proprio questo, che il destinatario di Caritas non è solo esclusivamente l'incontro con il povero, ma il destinatario di Caritas è l'incontro con il povero e il coinvolgimento della comunità. Ogni nostra azione ha proprio lo scopo di coinvolgere, animare e sensibilizzare la comunità. E l'incontro con il povero diventa l'occasione per riuscire a coinvolgere tutto il soggetto comunità cristiana. Gesù aveva detto: i poveri con voi li avete sempre, però bisogna appunto che tutta la comunità se ne renda conto e se ne faccia carico. Esattamente, non delegare a un gruppo, ma la Caritas è proprio invece l'esperienza di riuscire a coinvolgere, perché tutti i soggetti, dai bambini ai giovani agli adolescenti al gruppo coppie, il coordinamento pastorale, consiglio pastorale, che tutto il soggetto comunità nel suo insieme sia attento, sensibile e si renda partecipe delle povertà presenti nel proprio territorio. Operazione certamente non facile, perché bisogna lavorare un po' sulla cultura in senso generale delle persone, cominciando magari anche fin da bambini. Esattamente, proprio su stimolo della nostra diocesi ci stiamo concentrando proprio in quest'anno sull'iniziazione cristiana, che è questo percorso proprio per iniziare le nuove generazioni a diventare discepoli di Gesù. Tutta la comunità è coinvolta, per cui la nostra diocesi ha chiesto che in maniera proprio molto esplicita che anche la Caritas e gli operatori della Caritas siano educatori alla fede grazie attraverso i segni concreti di carità. Ecco perché ha proprio chiesto anche a un operatore, Giorgio, di poter raccontare di questa iniziativa che stiamo portando avanti su mandato della diocesi insieme con l'ufficio catechistico, proprio per la costruzione di uno strumento operativo, un sussidio per aiutare proprio i catechisti e gli operatori Caritas a sensibilizzare e motivare e coinvolgere i bambini e le loro famiglie. Ecco, Giorgio lo incontreremo tra poco. Tu sei arrivato da poco a guidare appunto la Caritas diocesana in un territorio che è esteso e dir poco, insomma, quello della diocesi di Padova, che va dai monti fino alla profonda pianura. È complicato, ci sono realtà ovviamente diversissime, c'è la città, la campagna, la montagna. Sì, questo è proprio il mandato specifico che ho e ricevuto, ma che è anche il mandato specifico della Caritas diocesana di essere a servizio delle Caritas presenti in tutto il territorio della diocesi. Ecco perché anche su questo ci stiamo ho ereditato una buona esperienza proprio di coinvolgimento e di contatto, e noi stiamo portandola avanti in particolare anche attraverso proprio l'apertura dei centri di ascolto vicariale in ogni vicariato della nostra diocesi, proprio per riuscire a creare un collegamento stabile e anche molto concreto tra i vari territori della nostra diocesi e la Caritas diocesana. Bene, torneremo con te a parlarne. Adesso arriva un altro ospite, appunto Giorgio. Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Ed eccolo qui, cambio di ospite, cambio di sedia, un operatore della Caritas diocesana di Padova, Giorgio Pusceddu, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Nello specifico parliamo del progetto che ha citato Don Luca poco fa, ma partirei dalla novità di questi giorni, cioè il rinnovato sito caritaspadova.it. Sì, siamo finalmente online dopo mesi di preparazione e pensiero per presentare appunto questo nuovo sito www.caritaspadova.it, che è partito da una riflessione. Avevamo pensato di rifarlo perché abbiamo bisogno di presentarci in un modo più attinente a quelli che sono i movimenti, le azioni che stiamo mettendo in campo, e anche utilizzare lo strumento web per dialogare meglio con il territorio, per dialogare meglio con tutto il mondo che ci gira intorno, cioè gli operatori, i volontari e le comunità. Quindi questo sito sfrutta appunto tutte le potenzialità e cercherà di sfruttarle sempre meglio per raggiungere questi due obiettivi: comunicarci meglio e dialogare meglio. Come si diceva prima, anche le distanze che ci sono, insomma, tra la parte nord e la parte sud vengono azzerate grazie alla tecnologia. Invitiamo a visitarlo, quindi a navigare, ma quali sono le novità principali nella sua struttura, nei suoi contenuti? Le novità sono una riorganizzazione di tutti i contenuti che rispondono alla parola chiave della semplicità e della completezza, e il tentativo di mettere online poi tutto quello che gira intorno alla Caritas, tra materiali, link, presentazioni, in modo che possiamo offrire non solo informazioni ma anche materiale di autoformazione, materiale di approfondimento, possibilità di crescita alle comunità, ai volontari e ai cristiani. Ovviamente aggiornato anche con contenuti multimediali. Indubbiamente, sì. E questo lo invitiamo a scoprire man mano. Torniamo al sussidio che citava Don Luca prima. Abbiamo collaborato, un'idea portata avanti con l'ufficio catechistico diocesano, per cercare di dare in mano ai catechisti, ai genitori, agli educatori che lavorano nelle parrocchie, nei territori, uno stimolo per riflettere sulla carità, perché come diceva prima il direttore, non è facile ragionare su questa parola, che spesso viene confusa anche con altri significati, cito uno, elemosina. Carità non è solo questo, e vale la pena fermarsi, creare qualcosa apposta per questi per chi opera appunto nell'educazione della fede, e dare occasione ai ragazzi di vivere dei momenti di formazione di contenuto. Quindi ci siamo rifatti a queste tre domande che cito: sono che cos'è la carità, perché la carità, che cosa motiva la carità, e l'ultima è il come e il dove della carità. Abbiamo costruito un insieme di attività che possono appunto dare l'occasione di sperimentarsi secondo queste tre direzioni. Qualche esempio? Sì, abbiamo per esempio l'attività semplice dell'incontro, di incontrare dei testimoni vivi che operano al servizio della carità, e quindi attraverso la loro esperienza capire qualcosa e attingere dal loro vissuto, ad attività che mettono in gioco la propria narrazione, delle narrazioni su come vivo io l'incontro con l'altro, e quindi stimoli ad andare anche verso magari i bisognosi della propria comunità, o anche insomma creare qualche occasione di incontro con anziani, persone con disabilità, oppure anche attività più semplici, più giocose, come un gioco di carte elaborato appunto dal gruppo di lavoro, che appunto permette di sperimentarsi, di giocare con le parole chiave del tema della carità. Insomma, anche stimolante, ovviamente adatto all'età. Il nostro tempo per questa settimana è finito, ma ci sentiremo con Caritas Padova fra 3 settimane per conoscere altre iniziative e continuare anche l'approfondimento sul significato di Caritas. Grazie a Giorgio Pusceddu, Don Luca Facco, il direttore di Caritas Padova, che è stato con noi. www.caritaspadova.it, navigate e così conoscerete anche lì meglio. Grazie. Grazie mille. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.